Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, buona giornata a tutti da Deborah Rosciani. Ai nastri di partenza la terza edizione dello scudo fiscale, anzi qualcosa di più dei nastri di partenza, visto che è già possibile far partire da oggi la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, cioè la possibilità di rimpatriarli anonimamente. Una finestra che sarà aperta fino al 15 aprile del prossimo anno. Sta muovendo proprio in queste settimane i primi passi la task force appositamente predisposta dall'Agenzia delle Entrate per la messa a punto di tutte le specifiche tecniche per lo scudo, alcune delle quali sono arrivate ieri sera. L'anonimato è garantito e si evitano eventuali sanzioni dal fisco, ma non si potrà accedere allo scudo se è in corso un accertamento fiscale o se è già stata accertata la violazione di obblighi tributari o contributivi. È sicuramente un tema inconsueto per Salva Danaio, è un tema delicato e per certi aspetti anche complesso. Noi però oggi abbiamo in ogni caso voluto parlarne nella nostra trasmissione e cercheremo soprattutto di tradurlo per i nostri ascoltatori con l'aiuto del Sole 24 Ore, che ha seguito ad ogni passo l'evoluzione della normativa sul rimpatrio, i cui termini tra l'altro sono stati anche inaspriti per certi versi con la manovra anticrisi della scorsa estate. Chi ci aiuta questa mattina è il collega del Sole 24 Ore, Marco Peruzzi. Bentornato Marco. Grazie, ritorna a Salva Danaio con un tema che non è proprio esattamente semplice, ma Marco è abituato ormai insomma a fare un po', come dire, indigestione di novità fiscali e tributarie. E buongiorno e benvenuti invece per la prima volta a Salva Danaio, ne siamo molto lieti, al professor Tommaso Di Tanno, docente di diritto tributario presso l'Università di Siena. Professor Di Tanno, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Naturalmente spazio aperto anche alle vostre curiosità, alle vostre domande all'800 24 00 24 o al 349 238 6666 se ci vorrete scrivere dei messaggi. La borsa, un'occhiata come sempre al mercato finanziario, borsa oggi piuttosto debole su tutti i versanti geografici europei. Ieri è stata una giornata di prese di beneficio per l'Europa, poi i listini del vecchio continente hanno risollevato la testa sul finale chiudendo intorno alla parità, e anche oggi alcune piazze si stanno muovendo intorno alla parità, come Parigi che adesso è appena positiva per lo 0,05%, mentre è in leggerissimo calo Londra, meno 0,02%, un po' più forte il calo di Francoforte, meno 0,43%, abbiamo usato anche un gioco di parole, Milano meno 0,2% sul FTSE MIB. Abbiamo sotto osservazione stamattina il settore auto per diversi motivi, sia perché stanno emergendo delle indicazioni su alleanze in vari segmenti industriali dal Salone dell'Auto di Francoforte, che sta cominciando appunto proprio in queste ore, e poi abbiamo i dati sulle immatricolazioni europee che sono stati diffusi stamattina dalla CEA, l'associazione dei costruttori, delle aziende appunto costruttrici europee. Le vendite di nuove auto in Europa in agosto sono salite del 2,8%, è stato un buon dato anche quello espresso da Fiat, le cui vendite in agosto sono aumentate del 10,9%. Infatti Fiat è tra i titoli che brindano in Europa. Questa mattina abbiamo un rialzo dello 0,45% a Piazza Affari, mentre gli altri titoli in Europa erano quasi tutti negativi. Il miglior titolo però a Milano è Parmalat, più 2, Unipol più 1,84, Terna più 1,33, più 1,3% per Telecom. Ansaldo, promossa da una casa di investimento della banca d'affari americana Goldman Sachs, registra un rialzo dell'1,21%, un punto di progresso anche per Campari e Bulgari. In discesa invece la ex autostrade, meno 1,24, Banco Popolare in ribasso di un punto con Saipem, meno 0,9% anche per Fondiaria e Unicredit. E Borsa Italiana ha comunicato che le azioni ordinarie dei viaggi del ventaglio sono sospese dalle negoziazioni. Ieri pure lo erano, in attesa di comunicato che non è arrivato. Oggi Borsa Italiana ha fatto sapere che questa sospensione a questo punto è a tempo indeterminato, ma i viaggi del ventaglio viaggiano in condizioni finanziarie piuttosto precarie da diverso tempo e chissà che non arrivino novità proprio a tal proposito. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di stamattina. Oggi cercheremo di conoscere, di farvi conoscere in termini semplici tutti gli aspetti dello scudo fiscale. Lo scudo fiscale, edizione numero 3, è ai nastri di partenza. Da oggi fino al 15 aprile 2010 sarà infatti possibile rimpatriare e regolarizzare i capitali detenuti all'estero pagando una piccola somma. Rispetto alle precedenti edizioni, però, lo scudo 2009 contiene qualche novità. Innanzitutto prevede un'aliquota più elevata, pari al 5% del valore rimpatriato. Una percentuale tuttavia inferiore, e non di poco, a quelle previste nei provvedimenti di altri paesi, come gli Stati Uniti o la Germania. Il rimpatrio si perfeziona con il pagamento dell'imposta, che si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate, ovvero regolarizzate, a partire da oggi. A garanzia dei contribuenti italiani, inoltre, vige l'anonimato. L'intermediario, banca, SIM, SGR, poste e fiduciarie e il contribuente stesso compileranno una dichiarazione riservata, non trasmessa al fisco, in cui saranno riportati gli importi rimpatriati o regolarizzati. Volevo ricordare anche che il Sole 24 Ore sta elaborando, preparando un instant book che sarà in edicola entro pochi giorni con il quotidiano. Naturalmente vi faremo sapere quale sarà la data precisa della pubblicazione, magari contestualmente ci rifaremo anche un'altra puntata di Salvadanaio. Anche sul sito del Sole 24 Ore, insieme a quello dell'Agenzia delle Entrate, Marco, troviamo tutti i moduli che proprio l'Agenzia delle Entrate ha diramato ieri sera. Di esatto. Che cosa stiamo parlando? Allora, lo scudo fiscale, lo diceva appunto la scheda, parte oggi. Da oggi, cioè è fino al 15 aprile dell'anno prossimo, cioè per 7 mesi, è possibile regolarizzare oppure rimpatriare. Regolarizzare significa regolarizzarle di fronte al fisco, rimpatriarle e lasciandole quindi nello stato dove attualmente si trovano, mentre il rimpatrio presuppone il rientro di questi capitali in Italia. Regolarizzare appunto delle attività che possono essere semplici attività finanziarie, esempio denaro piuttosto che titoli, oppure delle attività patrimoniali, come ad esempio una casa, gli immobili e altro ancora. La novità odierna, oltre che a termini di legge oggi è il primo giorno per poter fare lo scudo fiscale, è proprio l'emanazione avvenuta ieri da parte dell'Agenzia delle Entrate del modello cosiddetto di dichiarazione riservata. È il modello sostanzialmente che consente delle attività che si intendono appunto fare emergere, che consente di aderire allo scudo fiscale. Sono i modelli che dovranno essere presentati da chi vuole fare lo scudo fiscale all'intermediario, che quindi riceverà anche in deposito le somme o le altre attività per cui è stato incaricato della regolarizzazione. Marco, questo è il terzo scudo fiscale della storia della Repubblica? Sì, i primi due sono stati a cavallo dell'anno 2000 e 2003, la operazione anche allora diciamo che era abbastanza simile. Ora c'è principalmente uno sbarramento, nel senso che ci sono delle attività che si possono senz'altro rimpatriare, altre invece, poi lo vedremo, che è possibile semplicemente regolarizzare. Per esempio immaginiamo agli immobili, che ovviamente non possono essere riportati in Italia, che possono essere soltanto regolarizzati. Ma lo spirito del provvedimento è sostanzialmente quello di fare una lotta all'evasione, in particolare nei confronti dei cosiddetti paradisi fiscali, cioè di quei paesi che offrono un regime fiscale privilegiato rispetto a quello italiano. Tra l'altro ci sono tanti aspetti interessanti da affrontare. Io ero anche piuttosto scettica nell'invitare gli ascoltatori a chiamare, perché immaginavo, insomma, sicuramente stiamo parlando di patrimoni importanti, di società anche piuttosto complicate, domiciliate fiscalmente all'estero. Invece vedo che qualcuno ci sta chiamando, quindi professor Di Tanno, io chiedo subito così un'indicazione a lei. Allora, non è vero che questo corrisponda a realtà? Non è detto che, pur essendo domiciliati all'estero, ci siano solo degli importi molto grandi, patrimoni molto grandi, società con ramificazioni complessissime? Dunque, tanto per cominciare, stiamo parlando di patrimoni posseduti all'estero da persone fisiche, quindi non anche da società. Le uniche società che sono ammesse a questo provvedimento sono le società semplici. Le società semplici sono possedute da persone fisiche e non esercitano attività commerciali. Quindi lo scudo si riferisce solo a persone fisiche e comunque a soggetti che non esercitano attività commerciali. Che queste persone fisiche possiedano dei rilevanti capitali all'estero, questo è ben possibile, perché evidentemente parte dell'evasione fiscale che si verifica in Italia viene effettuata attraverso delle cosiddette triangolazioni con l'estero, quindi è ben possibile che degli imprenditori italiani, badi bene, qui dobbiamo distinguere fra la società e il suo azionista, cioè la società che evade il fisco è normalmente una società di diritto italiano, il beneficiario di questa evasione è il socio, spesso ovviamente il socio di controllo di questa società, che si fa accreditare determinati pagamenti all'estero, quindi la società non è compresa nel provvedimento di scudo fiscale perché nulla possiede all'estero, mentre nel provvedimento di scudo fiscale è compresa la persona fisica, socia di quella determinata società, che è il beneficiario stesso dell'evasione. Benissimo, allora noi dobbiamo già andare alla prima pausa, ma abbiamo già posto e fissato i primi punti interessanti da trattare. Ovviamente dovremo anche chiarire quali sono le condizioni per questi rientri e chiarire bene anche proprio la differenza fra il rimpatrio e la regolarizzazione, per capire anche se questi due istituti possono in questo procedimento convivere o meno. Eccoci ritrovati stamattina. Salva Danaio si addentra in un territorio un po' complicato, però è utile avere anche modo di conoscere i termini del funzionamento dello scudo fiscale, perché parte da oggi questa possibilità di regolarizzare capitali detenuti all'estero. E allora stamattina stiamo cercando di conoscere appunto i termini di questa operazione, che Marco Peruzzi avrà durata 7 mesi, quindi sarà possibile rimpatriare dall'estero capitali detenuti in maniera non completamente legale fino ad aprile. Dal punto di vista delle regole sul monitoraggio, cioè sostanzialmente si tratta di attività finanziarie oppure patrimoniali detenute prima del 31 dicembre 2008 presso uno stato estero. Scusami, un termine fissato dalla legge, perché c'era un ascoltatore, è arrivato un messaggio proprio adesso che chiede perché non possono essere regolarizzati i beni di cui si è venuti in possesso all'estero dopo il 31 dicembre 2008. Perché stiamo parlando di 6 mesi fa. Sì, comunque intanto è previsto dalla legge, e poi comunque il 2008, adesso il professor Di Tanno mi potrà correggere se sbaglio, è ancora in corso, cioè voglio dire le imposte sul 2008 si dovranno ancora pagare. Professor Tommaso Di Tanno, docente di diritto tributario presso l'Università di Siena, è nostro esperto di questa mattina per aiutare a capire un po' di più su questa questione. Assolutamente sì, i redditi del 2008 fanno ancora in tempo ad essere dichiarati nel corso del 2009, ma la domanda dell'ascoltatore merita una risposta più puntuale. Cioè la richiesta è: perché posso regolarizzare soltanto ciò che possedevo entro il 31 dicembre del 2008 e non successivamente? La verità è che successivamente al 2008, adesso non ricordo quando di preciso, ma diciamo nel corso della primavera del 2009, si è cominciato a parlare di scudo fiscale. Quindi se fossero state ammesse alla regolarizzazione anche capitali costituiti successivamente al 31 dicembre del 2008, si sarebbe dato un premio a coloro che, scommettendo sull'adozione di un provvedimento di scudo fiscale, avevano costituito proprio in quel momento. Quindi sarebbe un premio eccessivo. Esatto, già che tra l'altro stanno arrivando anche molti commenti a proposito proprio dell'aliquota applicata a questi capitali che rientrano. Poi spiegheremo anche le modalità di applicazione, perché anche questa non è semplice, questo 5% sui rendimenti presunti negli ultimi 5 anni. Adesso entriamo anche nel merito di questo, però io comincerei anche a coinvolgere i nostri ascoltatori che ci chiamano da casa all'800240024. Carla da Roma, benvenuta tra di noi. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ho questa domanda. Nel caso si avesse un conto cointestato all'estero, no? Sì. E nel caso che soltanto uno dei due volesse approfittare dello scudo fiscale, uno dei due cointestatari, certo, e l'altro no, è possibile questa cosa? È una bella domanda. Ci sono dei problemi. Professor Di Tanno, secondo lei? No. Cioè, se la dichiarazione viene resa da uno, il rapporto emerge per intero. Poi questo uno deve scegliere quanto dichiarare. Quindi colui che volesse far riemergere la sua personale posizione e dichiarasse per ipotesi il 50%, significa che regolarizza la propria posizione al 50%. Quindi mi parrebbe inopportuna una dichiarazione di questo genere. E quindi, insomma, che cosa può fare lì, oltre che litigare con il cointestatario del conto in maniera anche furibonda? Può dichiarare il 100%, e anche se il cointestatario non è d'accordo, la dichiarazione resa da uno solo regolarizza. Beh, però, insomma, è come dire, poi tra l'altro una scappatoia, per modo di dire. Voglio dire, mi sembra anche un suggerimento concreto corretto. Sì, tenendo conto che un conto è se si tratta di una regolarizzazione in cui basta la dichiarazione. Certo. Un altro conto è se si deve procedere al rimpatrio. Ecco, allora spieghiamo anche questo, professor Di Tanno, perché queste sono le strade da seguire per mettersi in regola con il fisco. Il rimpatrio e la regolarizzazione, Marco prima ce lo spiegava, ma sono due vie che possono convivere o sono alternative? Direi che sono... La risposta sarebbe tutte e due, possono sia convivere che essere alternative. Vediamo un po' meglio. Per quanto riguarda i patrimoni posseduti fuori dell'Unione Europea e fuori dello spazio economico europeo, che significa sostanzialmente Norvegia e Islanda, quindi per patrimoni posseduti fuori di questi paesi, quindi per i patrimoni posseduti per esempio negli Stati Uniti piuttosto che Cayman Island, non c'è alternativa al rimpatrio. Cioè, questi patrimoni devono essere rimpatriati. Per i patrimoni posseduti invece negli altri stati, quindi i 27 della Comunità Europea, più Norvegia e Islanda, si può scegliere tanto l'ipotesi del rimpatrio che l'ipotesi della regolarizzazione. La differenza consiste in questo, che i capitali posseduti nei paesi dai quali devono necessariamente essere rimpatriati devono varcare fisicamente il confine, cioè devono tornare indietro, non possono rimanere dove stanno. Mentre invece per i patrimoni posseduti nei paesi in cui possono essere semplicemente regolarizzati è sufficiente compilare la dichiarazione riservata e ovviamente pagare l'imposta sostitutiva. Di cui adesso appunto spiegheremo anche i termini economici, a quanto ammonta e come si fa ad applicarla. Marco Peruzzi, non abbiamo detto tutto a proposito di cosa troviamo sul sito del Sole 24 Ore relativamente alle informazioni da dare per far comprendere meglio i termini di questa operazione, quella dello scudo fiscale? Allora, il gruppo ovviamente Sole 24 Ore si sta impegnando a spiegare questa, a supportare gli operatori in questa operazione che per certi aspetti può essere davvero anche molto complicata in vari modi. Intanto ovviamente con l'informazione quotidiana che offre il giornale, in secondo luogo con la radio, anche oggi questa è una dimostrazione, e poi con internet. In internet innanzitutto al sito www.ilsole24ore.com è già disponibile da ieri pomeriggio ed è stato anche molto cliccato la novità del giorno, e cioè l'emanazione da parte dell'Agenzia delle Entrate del provvedimento di approvazione del modello, questa dichiarazione riservata. Quindi tutti vogliono vedere quali sono le informazioni che il fisco chiede relativamente alle attività che deve emergere. Certo, no? Anche questo. Ci sono le istruzioni, ci sono i tassi di cambio, ci sono poi c'è il provvedimento vero e proprio di approvazione. Possibile scaricare il modello e utilizzarlo, così come è possibile scaricarlo dal sito dell'Agenzia delle Entrate. Poi non è detto che naturalmente lo si debba compilare in maniera, come dire, individuale. Cioè, nel senso che è chiaro che forse è meglio rivolgersi agli operatori, ad un professionista. A proposito degli operatori, tra l'altro oggi arriverà un'altra circolare dell'Agenzia delle Entrate, Marco, oggi, esatto. Domani o comunque oggi, imminenti. Probabilmente oggi, anzi sicuramente dovrà arrivare oggi. Che non sarà definitiva perché proprio gli operatori dovranno... E dovranno dare i loro suggerimenti. Allora, la situazione è sostanzialmente questa: la legge c'è, ci sono una serie di lati oscuri, ovviamente, molti dei quali riguardano anche le conseguenze dello scudo fiscale, cioè il grado di copertura che lo scudo fiscale può dare a chi lo utilizza. La legge c'è, il provvedimento con il modello di dichiarazione riservata è stato fatto appunto ieri, e questo era necessario perché si potesse concretamente avviare da oggi l'operazione. Mancano le istruzioni operative, manca la circolare, cioè dell'Agenzia delle Entrate, è un lato quindi amministrativo della vicenda, che non è stata emanata, lo sarà fatto oggi. Il fatto è che non è una circolare definitiva, si differenzia in genere dagli interventi di prassi ministeriali per il fatto che si tratta soltanto di una circolare diciamo così, in bozza, una circolare cioè da diffondere a tutti gli operatori del settore per poi ottenere anche dalla stampa specializzata, quindi questo è anche un nostro compito, delle informazioni, dei suggerimenti per completare il quadro interpretativo dell'operazione scudo fiscale. E allora, a proposito di quadro interpretativo ed applicativo, anche noi utilizziamo ovviamente le sollecitazioni dei nostri ascoltatori. Sentiamo un po' il quesito di Marco da Brescia, che saluto. Marco, sì, buongiorno. Benvenuto, buongiorno a lei. Volevo chiedere, se uno ha aperto un conto corrente da un anno o magari da due anni, cioè l'aliquota è sempre del 5% o è del 2% annuo scontata del 50%, cioè l'1% annuo? Allora, professore... Io mi sembra aver letto qualcosa che dice... Basta riuscire a dimostrare, però c'è l'apertura del conto che quindi quello dimostra di averne usufruito, di avere dei capitali da un anno o da due anni. Certo. Ecco. Allora, professor Di Tanno, naturalmente questa è tutta per lei. Per la regolarizzazione e il rimpatrio si dovrà pagare un'imposta del 5%. Questa è la regola di base, ma poi ovviamente bisognerà vedere anche da quanto questo rapporto all'estero intercorre. Ma un conto è ciò che c'è scritto nella legge, un altro conto è la posizione presa dall'Agenzia delle Entrate attraverso il modello e le istruzioni al modello. La legge potrebbe effettivamente essere interpretata come dice il nostro ascoltatore, perché la legge fa riferimento a un rendimento annuo del 2% tassato al 50%, il che vuol dire 1% annuo. All'anno, certo. Quindi se si sta alla lettera della legge si arriva alla conclusione che se questo conto corrente è stato aperto, metti nel 2006, scusate, nel 2007, se è stato aperto nel 2007, gli anni in cui l'attività all'estero è stata posseduta sono soltanto il 2007 e il 2008, l'1% annuo porterebbe a dire che la regolarizzazione si può fare pagando il 2%. Quindi se si sta alla lettera della legge si arriva a questa conclusione. Quindi tuttavia, direi che l'ascoltatore... La posizione dell'Agenzia delle Entrate, desumibile dalle istruzioni al modello di dichiarazione, sono molto nette nel dire che si paga il 5% punto e basta. Cioè l'amministrazione interpreta la norma nel senso di una forfettizzazione, e del resto il nome imposta straordinaria, diciamo la costruzione di questa imposta, la costruzione di questa forma di regolarizzazione porta qualche materia di supporto all'interpretazione data dall'Agenzia delle Entrate, secondo la quale si paga il 5% in ogni caso. Allora, tra l'altro, mentre il professor Di Tanno ci stava rispondendo, stavo notando che diverse delle considerazioni e delle domande che arrivano dai nostri ascoltatori si riferiscono ad operazioni di natura immobiliare. Banalmente ci sono immobili acquistati all'estero, in alcuni casi denunciati mai o mal denunciati in passato, e allora molti ascoltatori ci chiedono se è proprio questo il caso in cui è possibile avvalersi delle opportunità offerte adesso dallo scudo fiscale. Allora io chiedo un attimo di pazienza ad Emanuele da Modena, che ha proprio una domanda su questo, mentre la domanda di Marco è proprio relativa ad un immobile acquistato in Francia 10 anni fa. Ci dice: non l'ho mai denunciato nella dichiarazione dei redditi, è possibile regolarizzare con lo scudo. Salva Danaio sullo scudo fiscale questa mattina, 800 24 00 24, per le vostre domande che noi rivolgiamo a Marco Peruzzi del Sole 24 Ore e al professor Tommaso Di Tanno, docente di diritto tributario all'Università di Siena. Emanuele da Modena, benvenuto anche a lei. Emanuele. Buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto complimenti per la trasmissione e per il servizio che date. Grazie mille Emanuele, ci dica io tutto. Io ho acquistato 4 anni fa un appartamento in Croazia. Sì. E allora un italiano non poteva acquistare direttamente un immobile e ho costituito una società croata che a sua volta è proprietaria di questo immobile. Devo dichiarare le quote di questa società, rientro nello scudo? Certo, qual è la migliore opportunità insomma per regolarizzare questa situazione alla luce di quanto stabiliscono le regole dello scudo fiscale? Professor Di Tanno, allora, venisse nel suo studio tributario questo nostro ascoltatore, che suggerimenti operativi siamo in grado di dare fino a questo momento, ovviamente, perché magari qualcosa potrebbe anche cambiare. Presumibilmente non dovrebbero ancora arrivare nuovi interventi normativi, ma sono le circolari dell'Agenzia delle Entrate soprattutto un po' non a preoccupare gli operatori, però poi quelle entrano proprio nel concreto dell'attività, quindi sono sicuramente più importanti. Professor Di Tanno. Ma direi che la situazione di Emanuele è paradossalmente la situazione migliore, perché non possiede direttamente l'immobile, ma l'immobile è posseduto da una società, il che vuol dire che Emanuele possiede direttamente soltanto le quote di questa società. Questa è la situazione migliore perché evidentemente le quote possono essere facilmente rimpatriate, mentre un immobile in sé per sé non può essere rimpatriato. Quindi Emanuele in questo caso deve dichiarare il possesso delle quote, il cui valore è evidentemente riconducibile al valore dell'immobile stesso. E questo è un punto. L'altra domanda che era stata fatta, se non ricordo male, da un ascoltatore, si chiama Marco. Sì, per quello che riguarda l'immobile acquistato in Francia. Sì. Esatto. Quindi Marco può semplicemente regolarizzare la sua posizione dal momento che non deve trasferire l'immobile nonostante il fatto che l'immobile sia intestato a lui personalmente. E non lo deve fare nel presupposto che l'immobile in questo caso si trova in Francia, cioè si trova in un paese per il quale è consentita la pure semplice regolarizzazione, essendo la Francia un paese comunitario. Comunitario, certo. Bella e anche interessante la domanda di Paolo da Brescia che dice: io ho aperto un conto nel Regno Unito perché mi reco spesso là per lavoro. È illegale, va dichiarato? Professor Di Tanno? Beh, avrebbe dovuto essere dichiarato nel modello W, diciamo nel quadro W della dichiarazione dei redditi, quindi se non l'ha fatto va evidentemente regolarizzato. Va regolarizzato nel senso che va pagata l'imposta sostitutiva, ma il conto può rimanere lì dov'è, perché la Gran Bretagna è un paese comunitario. Perfetto. Peraltro, questa famosa tabella con i tassi di cambio, Marco Peruzzi, ci aiuti a capire in che cosa consiste? Perché naturalmente in relazione al luogo in cui abbiamo queste somme che sono appunto depositate evidentemente in qualche conto, adesso per dirla proprio in termini molto semplici, chiaramente dovranno essere tradotte anche in euro per stabilire il livello dell'aliquota, no, il livello dell'aliquota poi l'abbiamo detto, però dobbiamo avere comunque una cifra precisa su cui fare il conteggio. Certo. Cioè l'Agenzia delle Entrate che cosa ha fatto ieri sera, appunto, che ha emanato anche questa tabella. Sì, giustamente, perché sostanzialmente per effettuare la regolarizzazione occorre evidentemente indicare anche l'importo, e quindi trattandosi di somme detenute all'estero, il Ministero dell'Economia attraverso l'Agenzia delle Entrate ha fatto questa tabella con i cambi delle valute dei paesi di riferimento, e questi vanno ovviamente indicati nella dichiarazione riservata che è possibile presentare fin da oggi. Allora, tra l'altro i miei collaboratori mi stanno segnalando la notizia: sarà composta da 50 funzionari, avrà sede a Milano la task force che verrà istituita nei prossimi giorni dall'Agenzia delle Entrate in collaborazione con la Guardia di Finanza per gli accertamenti sui capitali finiti nei paradisi fiscali. Lo ha annunciato proprio il direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera in un convegno che è in corso questa mattina alla Fiera del Levante. La task force, ha spiegato Befera, si occuperà di acquisire informazioni utili ai fini dell'individuazione dei fenomeni più rilevanti di evasione ed elusione internazionale. Marco. È proprio una lotta ai paradisi fiscali a 360 gradi. Nei giorni scorsi lo stesso Befera ha detto in un'intervista che lo scudo fiscale è una facoltà, ovviamente, chi vuole la esercita, e chi non vuole, però, testuale, ha detto, troverà pane per i suoi denti. La costituzione di questa task force dovrebbe sostanzialmente monitorare su questi fenomeni di denaro all'estero. Francesco da Milano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo porre un quesito. Cosa succede se un erede subentra in una posizione antecedente, diciamo al 31/12/2008, e volesse regolarizzare in Italia la posizione, diciamo, cioè volesse portare i fondi in Italia? Professor Di Tanno, aspetti Francesco, magari il professor Di Tanno ha bisogno di qualche delucidazione in più, così magari è in grado di dargliene in diretta. Sì, dove sono posseduti questi fondi? Francesco. Un conto è se i fondi sono posseduti a Svizzera, quindi in un paese non comunitario. Non comunitario. E non ha alternative al rimpatrio. Cioè questi soldi devono, questi elementi patrimoniali devono essere fatti rientrare in Italia avvalendosi di un intermediario italiano. Quindi c'è bisogno di uno spostamento fisico, per capirci, di questi fondi dalla Svizzera verso l'Italia. Ok, ma essendo l'erede subentrato al conto dell'estinto, diciamo, di cui magari non era consapevole in precedenza, Francesco, per cui è una situazione che in qualche maniera subisce, per utilizzare anche un brutto termine. Professor Di Tanno, che l'erede è subentrato entrato dopo il 31-12-2008. Sì. Questo ha qualche effetto? Professor Vitano, dopo esattamente, infatti, ci eravamo persi questa precisazione prima. Ma guardi, se è possibile dimostrare che questi fondi esistevano in Svizzera prima del 31 dicembre del 2008, non vedrei delle difficoltà insuperabili. Non vedrei delle difficoltà insuperabili perché ciò che si è aperto dopo il 31-12 del 2008 è semplicemente la successione. Facciamo l'ipotesi che il De Cuius è deceduto, non so, il 3 gennaio del 2009. Non c'è dubbio che il patrimonio oggi è di competenza degli eredi, ma se è possibile dimostrare, e immagino lo sia, che i patrimoni del De Cuius erano posseduti prima del 31 dicembre del 2008, direi che la situazione può essere tranquillamente regolarizzata. Benissimo. Questa è una tipica situazione da regolarizzare. Allora, io qua a sorpresa sto chiudendo la trasmissione e non immaginavo neanche che arrivassero tante domande di stampo così pratico e interessante come sono arrivate questa mattina, per cui io credo che dovremmo necessariamente, Marco Peruzzi, in concomitanza con l'uscita dell'Instant Book del Sole 24 Ore, ritornare su questo argomento e magari aiutarvi anche ad elaborare meglio il vostro forum. Nei giorni prossimi sarà appunto pronto questo Instant Book, sarà in edicola, e poi tutti i giorni comunque sul Sole 24 Ore ci saranno articoli di approfondimento, ovviamente, e siamo qui, probabilmente già domani pubblicheremo la circolare, la bozza di circolare, perché comunque ci darà, è vero che andrà completata anche grazie ai suggerimenti degli operatori, altrettanto vero che comunque conterrà tante indicazioni importanti, quindi già da domani avremo delle ulteriori precisazioni. Da qui ad aprile fiscale, chissà quanti quesiti emergeranno. Professor Vitano, io la ringrazio per essere stato con noi, abbiamo 10 secondi di tempo, vuole esprimere qualche raccomandazione finale ai nostri ascoltatori e magari alla quale tiene che non abbiamo avuto modo di dire? Di aspettare un pochino. Esatto, tempo fino a 15. Operazioni di questo genere nascono molto complicate, con una serie di precisazioni da fare in momenti successivi. Del resto questo è già avvenuto con lo scudo numero 1. Il 2 in realtà è stato un elemento di completamento dello scudo numero 1. Quindi non so se noi avremo uno scudo 4, ma insomma lo scudo 3 richiede qualche ulteriore precisazione. E allora, professor Vitano, io magari la disturberò anche con la mail, perché ci sono molti ascoltatori ai quali non ho fatto in tempo a rispondere questa mattina in diretta. So già che ci scriveranno, per cui le chiederò anche un aiuto e magari torneremo anche ad invitarla molto volentieri a Salvadanaio. Salvadanaio che torna domani, buona giornata a tutti. Salvadanaio.